Music Pills, nuove uscite discografiche, gli artisti al microfono. Buongiorno e bentrovati a tutti i radioascoltatori con questa nuova puntata di Music Pills. Bentrovati a tutti, buon mercoledì. Io sono sempre Claudio Succi e i vostri microfoni, e oggi abbiamo degli ospiti in studio, sono venuti a trovarci, li abbiamo cercati perché... insomma, è uscito un nuovo singolo e da un po' che erano rimasti silenti e noi l'abbiamo apprezzato particolarmente, quindi li abbiamo invitati qui e loro hanno risposto subito presente. Ve li vado a presentare, loro sono Marco Cardona e Gianluca Burzi e insieme sono la Malcostume. Bentrovati. Ciao ciao, grazie mille per l'invito. Ciao a tutti. Grazie, grazie a voi di essere qui. Allora, è uscito il nuovo singolo, è uscito anche il video, un momento insomma importante, a noi è piaciuto per mille ragioni, ma intanto vorrei farvelo presentare a voi, cosa vi ha spinto e di che cosa parla questo brano. Sì, ci siamo riattivati dopo un bel po' di pausa per vari motivi e ora finalmente siamo tornati attivi. Il brano si chiama Materia Prima e parla di quella che è la materia prima degli artisti, cioè ogni esperienza e ogni vissuto, ogni sensazione che un artista, quindi in questo caso noi, facciamo nella quotidianità con qualsiasi persona conosciamo, qualsiasi esperienza facciamo, entra nella nostra testa, la lavoriamo come se fosse appunto una materia prima di un processo e poi buttiamo fuori la musica. È un processo che può essere più o meno cosciente, consapevole, però ci piaceva sottolineare quello che viene prima del brano, cioè ogni persona che abbiamo conosciuto è materia prima sostanzialmente. Sì, il vissuto diventa il grezzo da lavorare per far uscire l'opera, un po' come il blocco di marmo per gli scultori oppure la tela bianca per chi dipinge. Allora, il duo appunto che vede Marco alla voce, invece Gianluca alle basi, alla chitarra e dalla parte più strumentale, non è stato sempre un duo, ha una storia insomma che ormai è già da qualche anno sugli stage, sono pronti anche per i live, ma prima vorrei coinvolgervi anche per quello che riguarda il video, che insomma si vede che c'è una mano professionale, ecco. Sì, sì, il video diciamo che abbiamo cercato, essendo che è il nostro primo singolo, quindi sì, abbiamo cercato di fare questa nuova composizione della Malcostume. Diciamo che Marco già aveva dei progetti inizialmente da solo, ha voluto diciamo cercare di allargarsi per cercare anche nuovi suoni, nuove ambizioni, e da lì ha contattato me, ci siamo trovati molto bene, abbiamo cercato di ricreare alcuni suoni diciamo un pochino più vintage, però cercando di ricostruirli in maniera odierna di adesso, e quindi come primo singolo abbiamo voluto spingerci su questo video, cercare di fare un video consono alla canzone che, sì, sì, è vero, che è abbiamo vero. Fatto ecco. Anche se si capisce subito dal font utilizzato e dai particolari, insomma, anche la stessa luce come viene utilizzata per creare movimento è un'opera d'arte che non lascia indifferenti. Parliamo di musica, parliamo di arrangiamento. Personalmente, insomma, mi ha ricordato le atmosfere anni zero, non so, After Hours, Teatro degli Orrori, oppure generi comunque che rimandano al post-rock italiano. Sono lontano, conducetemi. No, no, è corretto, nel senso siamo partiti da quel mondo, un mix tra, come dici tu, After Hours, Marlene Kunz, Verdena, oppure volendo andare all'estero magari ci piaceva anche qualcosa dei Nine Inch Nails, e poi però abbiamo cercato anche di metterci un po' di elettronica, poi la nostra cifra stilistica generale è quella di unire un po' elettronico, un po' il rock, poi dipende ovviamente canzone per canzone, in alcuni brani prevale più il rock, in altri più l'elettronica, ma dipende. In questo prevale più il rock, assolutamente alternative rock, un po' dark, oscuro, magari un po' cupo, per il brano abbiamo collaborato con Leo Sartoni per la produzione, e tra l'altro l'altro collaboratore per il video, giusto per ringraziarlo, è Alex Cifiello di On The Roar Productions. E sì, questo brano è venuto oscuro un po', partiamo sempre da atmosfere un po' dark, un po' forse malinconica, però non importa, cioè noi non ci mettiamo dei vincoli pregiudiziali, cioè in base a quello che ci ispira volta per volta, senza limiti precostituiti e senza seguire le mode del momento. Per ora è andata così. Ma infatti io, guarda, ti capisco bene, parlate di materia prima, per noi la materia prima è il silenzio, e in questo caso anche nel video si capisce bene che si parte dal buio per arrivare alla luce. Insomma, è molto bello secondo me questo passaggio, mentre musicalmente a me è piaciuto molto anche l'incalzare, parte con un tempo e un battito più lieve, e poi invece ti trascina, insomma alla fine ti fa ballare. Sì, diciamo che questo si può, diciamo, si intende come il nostro stile, cioè nel senso che noi cerchiamo sempre di partire, diciamo, da una base abbastanza bassa, e per poi fare un'esplosione nei ritornelli e cercare di ricreare qualche diciamo pezzo bridge in psichedelia, ecco. E riesce, insomma, almeno a mio avviso è perfettamente riuscito. E volete lasciare i contatti per chi adesso manderemo in onda il brano, ma prima, insomma, se volete indicare come seguirvi. Sì, siamo su tutte le piattaforme perché oggi è necessario, quindi probabilmente il posto migliore come social è Instagram e TikTok. Basta cercare La Malcostume, perché per fortuna non abbiamo trovato nessun altro artista che si chiama come noi. E invece non è scontato. Esatto. C'è solo uno stilista. Uno stilista che si chiama La Malcostume, giustamente La Malcostume. Però, insomma, non siamo confondibili per fortuna sui social. E poi ovviamente il video su YouTube, le canzoni su Spotify, Apple Music, ovunque. Ci abbiamo tutto, ci manca solo YouPorn. Però ci stiamo lavorando. Quindi bene, grazie tantissimo ragazzi di essere stati con noi, Marco e Gianluca della Malcostume. Grazie ancora, quindi ricordiamo un'ultima volta Materia Prima, e per saperne di più, se vi è piaciuto questo brano come è piaciuto a noi, La Malcostume, hashtag La Malcostume su tutti i social e su tutti i store di musica digitali. Quindi grazie ancora per essere venuti. Grazie mille a voi per averci invitato. Grazie mille. Ed ecco a voi La Malcostume con Materia Prima. Non voglio più parlarvi, non c'è motivo ormai. Perché dovrei vedervi, so già cosa otterrei. Qui da solo e poi ho già capito che non c'è altro dentro voi. Ma non c'è alcuna colpa, non ci riesco più. Non so. Quante che poi mi arrenderò. se riuscirò a cambiare, a dimostrare quel che so. Music Pills, nuove uscite discografiche, gli artisti al microfono.